Il diario di Q. Venezia, 24 febbraio 1551. A Venezia sono uno fra i tanti, una spia nel paese delle spie. Sono in molti quelli che osservano, annotano e poi riferiscono al padrone di turno, spesso al servizio di più padroni al tempo stesso, turchi, austriaci, inglesi. Non c'è potenza, partito o impresa commerciale che non abbia interesse a tenere occhi e orecchie in questo angolo di città. Tutti spiano tutti, in un incastro di doppi giochi, tripli, quadrupli. Dentro questo labirinto di strategie e opposte congiure dovrei far emergere l'interesse comune di incastrare i giudei. Come? Intanto, tengo la mente allenata con gli intrighi che lubrificano il patto tra Carafa e i veneziani. Il 21 di questo mese, il Consiglio dei Dieci ha bandito i padri Barnabiti e le monache angeliche da Venezia, con l'accusa di passare notizie riservate, raccolte in confessionale, al governatore di Milano Ferrante Gonzaga, vassallo dell'imperatore. In questo modo Carafa si è liberato di un concorrente. Ha chiuso gli occhi e le orecchie di Carlo V a Venezia. L'astuzia del vecchio teatino è spaventosa. Non solo pulisce il campo degli avversari in vista di grandi manovre, ma consente ai veneziani di confermare la celebre fama di integerrimi custodi dei propri affari, unici a non tollerare ingerenze di alcuno, neanche di Roma. Il vecchio finge di dolersene, mentre stringe la morsa. Sono a Venezia da un paio di mesi. Non frequento molti luoghi, ma al mio soldo ci sono diversi occhi che osservano ciò che mi interessa. Il bordello del defunto eresiarca di Anversa, innanzitutto. Di lui nemmeno l'ombra. Più fantasma che mai. Devo avere pazienza. Raccogliere altre informazioni su Tiziano. E intanto, svolgere il compito che mi è stato assegnato. Venezia, 9 marzo 1551. Gli occhi che pago nelle stanze della magistratura sugli stranieri riferiscono di una strana affluenza in città nell'ottobre dell'anno scorso. Personaggi ambigui, piccoli artigiani, commercianti, chierici, letterati, alcuni provenienti anche da lontano. Un centinaio di presenze, difficilmente riconducibili agli affari di Venezia. Nessuno di loro si è trattenuto più di una settimana. Una macchia nera negli archivi delle autorità locali. I nomi non dicono niente, tranne uno. Pietro Manelfi, figlio di Ippolito Manelfi, chierico di Ancona. Lo stesso nome che compariva tra gli accoliti del circolo cripto-protestante di Firenze. Lo stesso circolo frequentato da Tiziano tra il 49 e il 50. Una traccia. Segnalare questo nome agli inquisitori dei territori limitrofi. Milano, Ferrara, Bologna. Venezia, 16 marzo 1551. Pervenuta una missiva dal padre inquisitore delle Romagne. Interrogati alcuni artigiani di Ravenna in merito alla pratica del battesimo degli adulti. Sostengono di aver sentito di un certo Tiziano dedito a quella pratica non più di un mese fa, nelle terre basse, intorno alla città. Dicono anche che detto Tiziano parlasse contro l'autorità del clero e le proprietà ecclesiastica. Dicono che riscuotesse la simpatia della plebe, sempre pronta da quelle parti ad accogliere ogni pretesto per dar luogo a imposture e tumulti. Venezia, 18 marzo 1551. Segnalazione dell'inquisitore di Ferrara. Sostiene il nome di Tiziano il Battista essere noto in certi ambienti di quella città. Venezia, 21 marzo 1551. L'intera notte è passata a riflettere sulla strategia adottabile nei confronti dei giudei. Forse c'è un modo. Scrivere a Carafa.